stavo chiedendomi quante volte nella mia vita io sia uscito a cena con Anna e con Luisa assieme. Ma già riesco ad uscire poche volte con Anna, figuriamoci se aspetto che ci sia anche Luisa. Me lo sto chiedendo. Sì, me lo sto chiedendo da quando ho letto una pubblicità di ristorante. Diceva proprio così, no? Diceva: esco a cena con Anna e con Luisa, tanto è gratis, c'è il 3x2. Al che uno dice: beh, anche se non l'avessi mai fatto in tutta la vita di uscire a cena con Anna e con Luisa, è l'ora di cominciare, no? Tanto è gratis. Alt. Un momento, ma che cos'è gratis? Anna o Luisa? O sono io quello gratis? No, perché gratis sembrerebbe essere chi si aggiunge, no? Dunque, io esco a cena con Anna e, preso dal 3x2, ci aggiungo Luisa. Gratis è Luisa. Ma a me questa storia non piace. A me piacerebbe uscire con Anna e con Carlo. Non so se Anna vada d'accordo con Luisa, mentre sono sicuro che Anna vada d'accordissimo con Carlo, soprattutto se Carlo è il mio amico Carlo Oliva. Così, vedete, io e Anna ordiniamo i nostri due consumé, mentre Carlo ordina un po' di antipasti vari, gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, con una spruzzata di prezzemolo fresco, il gran bollito misto con le salsine, l'insalatina di soncino colto in tenera età, la frutta fresca e le albicocchine della California, più ovviamente un paio di bottiglie di refosco del ranuncolo rosso, il caffè doppio in tazza grande e la grappetta per dare una mano alla digestione. Così io e Anna paghiamo. Anzi, vabbè, guarda, sono in vena di generosità come sono, vabbè, pago io per tutti e due. Io e Anna siamo i due. E Carlo, che è il terzo, è gratis. Chissà se bisogna dirglielo prima al cameriere, quando si entra, no? Si fa: guardi, è qui il 3x2? Bene, guardi, noi siamo i due e lui è il terzo.